Sono del 56, quindi 67 anni. Da quanto vive a Lizzana? Ma io non vivo a Lizzana, vivo a Brentonico. Sono qui perché ho la banca qui. Sono stato a Brentonico. Sì? È bello Brentonico. Di estate ad agosto. Ah sì? Spettacolo. Allora, quanto spesso viene a Lizzana? E vengo circa una quindicina di volte all'anno, perché vado in banca solo per quello. Ah. Il suo lavoro qual è? Io adesso sarei in pensione, però sono agente di commercio. Ah. Sono stato agente di commercio, ho lavorato in Austria e in Germania. Io lavoro all'estero. Vendere materiali, essere Deus Machina di un'azienda e creare il commerciale. Con la resina tipo? No, no, io lavoro nel mondo del legno, legnami, i tetti, che vedi quelle case lì, i tetti lì. Cioè, lui sta dicendo che sta portando clienti all'azienda. Propria azienda per cui lavora. Esatto. Cosa ne pensi di Brentonico? Brentonico, un luogo fantastico, come tutto il Trentino. L'inverno fa freddo a Brentonico. Beh, insomma, stamattina erano 0 gradi, ma. Ah sì, perché mio papà lavora a Brentonico. Prego? Mio papà lavora a Brentonico. Ah sì, che bene, sì. Cosa fa? All'Avesan. Ah, l'Avesan, sì. Giù, sì, sì, è questione. Okay. Le origini della sua e della sua famiglia? Le origini mie e della mia famiglia sarebbero la Val di Ledro in Trentino. Ah. Sempre in Trentino, sapete sì, dov'è? Sì. Vicino a Riva del Garda? Esatto. Quello che vedi. E dopo varie vicissitudini mi hanno portato qua. E da piccolo vivevo in un luogo, la Val di Ledro, che era un luogo molto povero perché all'epoca non c'erano macchine, non c'erano risorse economiche. Infatti dalla Val di Ledro tutta la gente veniva a Riva del Garda a lavorare, dove c'erano alcune aziende. E lì lassù, però siamo sempre vissuti bene, decorosamente, non abbiamo mai sofferto la fame, perché parlo degli anni 60, cioè molti anni fa. Sì. Quali erano i giochi che facevate? Giochi molto spartani, con quello che trovavamo nel bosco, facevamo gli archi, giocavamo con le frecce, facevamo le fionde per tirare i sassi, con i pezzi di camera d'aria. I giochi come campana, salto della corda. Cioè certo, ma quelli facevano parte più o meno del circuito scolastico, insomma, sì, nella scuola. Cosa mangiavamo? Piatti tipici. Di dolci? Dolci, ma i piatti che facevano le nonne, le crostate, le torte molto poco strudel, torte povere, ma comunque si davano soddisfazione. Qual era il suo piatto preferito? Ma il mio piatto preferito ne ho più di uno, ma comunque è quello che si mangiava all'epoca, insomma, diciamo, polenta e coniglio.